Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius. Ciao Chiara. Eccoci qua, finalmente insieme. Allora, parleremo di una questione intima che riguarda i pipistrelli. Sì, e poi di materiali, di scarti agricoli utilizzati in edilizia. E infine un'inchiesta nuova sul cyberbullismo con dei dati, beh, insomma, abbastanza allarmanti. Partiamo. Dunque, come vi dicevamo poco fa, ci è arrivata una domanda intima sui pipistrelli e per rispondere a questa domanda abbiamo qui con noi questa sera Marco Ferrari, collega giornalista di scienza che scrive per Focus. Ciao Marco. Buonasera a tutti e buonasera agli ascoltatori. Ciao Marco, collega. Marco è un collega, sì, un giornalista di scienza. Di scienza, però ha proprio una base da zoologo. Esperto di animali, grande esperto. Allora, la domanda è molto semplice. Visto che i pipistrelli stanno a testa in giù, la popò e la pipì gli finisce addosso? Direi proprio di no, poverini, perché altrimenti molto probabilmente con un adattamento del genere si sarebbero estinti, sì, quasi tutti. Infatti. Ci sono molte ragioni per cui non lo fanno. Una è che essenzialmente le deiezioni, scusate il termine scientifico, sono molto molto molto secche, perché i pipistrelli mangiano insetti, quindi quello che avanza è un po' di chitina estremamente secca, quindi se anche per caso, per qualsiasi ragione, gli finisce addosso, non succede molto. Quindi non c'è una componente liquida, via. No, non c'è poca componente liquida. Poi in ogni caso i pipistrelli non passano tutto il giorno a testa in giù, come molti pensano, ma la maggior parte del tempo lo passano volando per andare a mangiare. E quindi ne approfittano, tu dici? Assolutamente, non hanno problemi. Altra cosa, molte specie di pipistrelli non stanno a testa in giù, ma stanno, diciamo, stesi e dentro le fessure, sotto i tetti e cose del genere. Anche lì pochi problemi. Ancora una volta, ci sono alcuni di quelli che stanno a testa in giù che hanno un trucchetto, siccome sono animali estremamente agili e anche robusti. Diciamo che volgono lontano dal loro corpo la estremità che produce le deiezioni. Scusa, quindi, sì, un po' più preciso. Cioè si tirano un po' su, no? Si tirano un po' su e fanno dei piegamenti in modo da... C'è una specie di addominale come quando vediamo la gente in palestra, insomma, si tirano su. Esattamente quello, sì, come se fossero appesi a un palo e si allontanano dal pericolo, sembrava una situazione terrificante, invece si sono organizzati. Beh, mi viene da dire che l'evoluzione l'evoluzione risolve tutto, sì, esattamente. Senti Marco, però quando ci siamo sentiti per preparare la risposta a questa domanda, approfittiamo dell'esperienza di Marco su questo tema. Tu ci hai detto una cosa strana che riguarda appunto in generale, insomma, la popò nei nidi per gli uccelli. Sì, molti uccellini di quelli piccoli, gli uccellini, diciamo i passeriformi, quelli dal merlo alla cincia, quelli al pettirosso che conosciamo, tendono a fare la popò lontano dal nido, perché essendo molto bianca, perché è ricca di azoto per varie ragioni complicate, se il nido fosse, diciamo, sporco di queste macchie bianche, sarebbe molto visibile. Ai predatori. Esattamente, ai predatori. Quello cosa che non succede, ad esempio, per gli uccelli molto grossi, perché se vedete un nido di cicogna o di aquila, diciamo che non sono particolarmente attenti all'igiene. Ecco. Sono pieni di cacca. Ma d'altronde, tranne i Boeing, chi è che va a caccia di aquile? Pochi, ci sono... E questo è un motivo, insomma. Questo è un motivo. Poi in più c'è un'altra cosa molto carina, molto interessante, sempre frutto dell'evoluzione, sempre in questi uccellini piccoli. I pulcini, quando sono ancora nel nido, non producono la cacca libera, mettiamola così, ma in una specie di sacchettino che i genitori, molto delicatamente, come fosse un pannolino di un neonato, prendono e buttano via. Scusa Marco, che natura ha questo sacchettino? Probabilmente è un sacchettino proteico che tiene il contenuto e può essere buttato via. Proprio quindi, prodotto da loro. E quindi biodegradabile. Quindi assolutamente... Sì, va nell'umido. Ho visto molti uccellini che lo buttano nell'umido. Sembra che i comuni dicono sì, va bene, buttatelo nell'umido. Senti Marco, mi sa che ne sai tantissime, quindi rimandiamo ad una prossima... Ma mettiamo la proroga, comunque. Noi sappiamo che tu hai una preparazione infinita su tutta la zoologia, ma visto che sei molto preparato su questi temi, torneremo a parlarne. Un'intera puntata, va bene? Va bene. Grazie Marco. Grazie a voi, grazie a tutti. Parliamo di bioedilizia, in particolare di quegli scarti agricoli che rinascono come materiali per la bioedilizia. Lo facciamo insieme a Daniela Ducato, che è qui con noi questa sera. Buonasera Daniela. Buonasera a tutti voi. Lei è coordinatrice di un grosso progetto. Allora, intanto parliamo di edilana, per cui in qualche modo utilizzate la lana, le fibre della lana, per produrre dei materiali edili innovativi. E adesso ci arriviamo. E poi sei anche coordinatrice di un distretto di filiera di produttori che fanno prodotti per bioedilizia, che si chiama Casa Verde CO2.0, che racchiude circa 70-80 aziende in tutta Italia. Intanto ti chiederei di raccontarci come è possibile far rinascere da questi scarti agricoli. Partiamo dalla lana, nuovi materiali con prestazioni, lo sentiremo, assolutamente interessanti. Allora, sì, noi giustamente tu li hai definiti scarti, ma noi non li definiamo scarti, ma eccedenze. E in questa parola c'è un po' la chiave di volta della nostra filosofia di produttori, ed anche poi la chiave di volta anche dal punto di vista scientifico di come noi trattiamo queste eccedenze. Eccedenze perché, ad esempio, la lana di pecora sarda è sempre stata utilizzata per fare i filati, e quindi si utilizza una parte del vello, che è quello a fibra lunga, mentre altre lane, magari con un pelo più corto o che dalla cernita non risultavano idonee al, appunto, processo della filatura, venivano scartate. E si tratta spesso di scarti che fanno dei danni all'ambiente, nel senso che, ad esempio, per bruciare questi scarti spesso non sono neanche, hanno un ottimo comportamento al fuoco, quindi non bruciano, quindi sono classificati come rifiuti speciali. E perché non sfruttare, quindi, insomma, questa proprietà del fatto che sono onnifugi? Ma hanno un ottimo comportamento al fuoco, quindi ne scopri il beneficio, dici, ma ha difficoltà a bruciare il materiale, allora usiamolo. Vuol dire che la natura ci sta dando un'indicazione, non lo devi bruciare, devi usare un altro modo. Chiaramente poi lavoriamo per trovare tutti gli utilizzi possibili, immaginabili e talvolta anche inimmaginabili. Per quanto riguarda la lana era più facile, perché si fanno i cappotti per le case che proteggono dal caldo e dal freddo. Quindi un forte potere isolante anche. Un forte potere isolante termico-acustico. In realtà esistevano già questi materiali a livello europeo, ma venivano termolegati, termofissati con fibre petrolchimiche come il poliestere. Mm-hmm. La nostra innovazione è stato, uno, avere un'ottima resistenza meccanica senza abbinare la petrolchimica, e due, portare i valori di conduttività termica, di inerzia termica alla loro massima espressione, quindi da capacità che prima erano buone, portarlo invece a capacità ottime. Ed è qui la nostra innovazione: elevare il prodotto qualitativamente e anche eliminare la petrolchimica. E poi non vi siete fermati alla lana, allora questo ci è chiaro. Avete sfruttato le alghe, i carciofi, ecco, ti lascio raccontare. Allora, abbiamo sfruttato, utilizzato oltre 150 eccedenze agricole, e l'ultimo nato è la posidonia, è una pianta acquatica che bisogna lasciare esattamente dove il mare la porta, sono quelle che si definiscono le palle di mare, no? Che tutti quanti abbiamo visto in tante spiagge, è un segno di mare pulito, di mare sano, quindi vanno lasciate dove il mare le porta, perché ovviamente difendono dall'erosione costiera. Però, come tutto ciò che può essere fortemente abbondante, può comunque, se le quantità sono eccessive, creare dei problemi anche economici ai comuni, che poi per lo smaltimento dovrebbero chiaramente gravarsi di notevoli costi. Cosa deve fare il comune? Continuare a pagare denaro per lo smaltimento o trasformare quel costo in un'opportunità dove il comune non paga più quel denaro, e dove invece siamo noi che interagiamo trasformando quella problematica, quindi quella fibra marina, che poi in realtà è una fibra di legno delle foreste marine. Quindi ci pensate voi, insomma, in qualche modo la portate in azienda e la trasformiamo assieme alla lana di pecora, diventa una fibra di legno, fanno un potente isolante, termoisolante con un'altissima inerzia termica, che consente di proteggere gli edifici e quindi di ampliare la possibilità di fare un efficientamento energetico dei nostri edifici, sempre senza usare materiali derivati dalla petrolchimica, solo esclusivamente naturali. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo in compagnia di Daniela Ducato, coordinatrice di una rete di imprese legate alla bioedilizia, in particolare la sua azienda si chiama Edilana. Abbiamo parlato di come la lana, di come le alghe possano rivivere con innovativi materiali ad alte prestazioni, e ora continuiamo. Avete utilizzato anche i carciofi, se non sbaglio, e le vinacce. Allora, carciofi, vinacce, stiamo parlando di eccedenze di lavorazioni altamente tanniniche, per esempio per quanto riguarda le vinacce, che possono invece ritrovare la loro vita, anzi la loro bellezza, con i loro colori, ad esempio, che è uno dei tanti usi che ne facciamo, o come mordenti, come leganti. La cosa importante è che non solo si restituisce vita a queste eccedenze, ma si restituisce anche parola, vocabolo all'agricoltura, perché vedere un bel muro pitturato con tutto ciò che ti offre un carciofo o un cannonau o un barolo, e quella parte che chiaramente non diventa vino, e vedere che diventa invece una parete, vuol dire trasferire su quella parete un pezzo di paesaggio italiano, e quindi anche i nostri muri, anziché parlare di colori petrolchimici, possono invece raccontare il made in Italy dell'agricoltura e tutta la bellezza che c'è in questi colori. Perché vorrei dire una cosa: non è solo una questione, tra virgolette, di amore per l'ambiente, sì. Ciò che ci guida è anche il mantenere e coltivare la bellezza del paesaggio, perché questi materiali sono belli anche da toccare, da vedere, da indossare, da ammirare, quindi e noi in questo modo coltiviamo bellezza, paesaggio e made in Italy, perché tutte queste produzioni, tra l'altro, sono anche fatte 100% in Italia. E questo... Bene, grazie Daniela per averci restituito, insomma, questa immagine un po' di ottimismo e di bellezza, appunto, del nostro paese. Io ricordo, forse non l'ho detto all'inizio, l'avranno capito forse gli ascoltatori, tu sei sarda, lavori a Guspini, ripetiamo il nome dell'azienda, insomma, se qualcuno volesse poi cercare informazioni su internet, si chiama Edilana. Avete ricevuto diversi premi, diverse, che tu come imprenditrice hai ricevuto diverse onorificenze, quindi vabbè, insomma, ti facciamo i complimenti e ti ringraziamo per averci restituito queste immagini così un po' ottimistiche. Grazie Daniela, davvero. Grazie, congratulazioni, Chiara. E buon lavoro. Buon lavoro a voi. Al Congresso Nazionale delle Società di Pediatria a Verona, le società italiane, un paio di settimane fa è stata presentata una ricerca e poi dati di analisi in generale sull'uso della rete da parte degli adolescenti in Italia. Le conclusioni ci consegnano un po' di dati preoccupanti. Ho intervistato Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza e curatore dell'indagine nazionale su abitudini e stili di vita degli adolescenti, indagine appunto che è stata realizzata per la Società Italiana di Pediatria. La prima domanda ricavata dal suo intervento al congresso è stata la seguente: nel 2006 gli adolescenti che passavano almeno 3 ore al giorno in rete erano 0 in percentuale. Oggi sono il 95%. L'intervista inizia qui. Sì, c'è stata un'esplosione negli ultimissimi anni. Oggi sono quasi il 30% gli adolescenti che dicono di essere in rete più di 3 ore al giorno, ma è un dato sottostimato, perché da quando c'è stato l'avvento dello smartphone praticamente loro sono collegati H24, non c'è un momento di sosta, sono sempre online. Ora, siccome noi adesso ci stiamo addentrando in problemi che derivano da questa fortissima presenza di adolescenti, anzi, qui specifichiamo l'età a cui lei si riferisce nelle vostre ricerche, qual è esattamente? Noi facciamo le ricerche in terza media, quindi una fascia d'età che va dai 12 ai 14 anni. Ecco, allora appunto stavo dicendo, visto che ci addentriamo nei problemi, però dobbiamo anche dire questo: è del tutto impensabile bypassare lo strumento, cioè non possiamo pensare di risolverli eliminando. No, non solo non possiamo eliminare internet, ma sarebbe veramente deleterio eliminare internet. Internet è uno strumento straordinario, ma anche per gli adolescenti. Dobbiamo insegnare a dosarlo, e dobbiamo insegnare, specie per tutto quello che riguarda l'area social network, ad avere dei comportamenti che siano dei comportamenti non a rischio. Quindi grande potenziale, ma allo stesso tempo essere consapevoli dei problemi. Lei ha citato un sito, Ask, con la K finale, e l'ha citato come un luogo decisamente pericoloso. È un luogo pericoloso perché su Ask è possibile fare domande e parlare sotto anonimato. Per cui questo ovviamente libera chiunque da qualunque remora, è un po' come l'uomo invisibile, puoi dire quello che vuoi però nessuno sa chi sei. Ed è ancora peggio perché molte volte io conosco perfettamente la vittima, pensiamo ai casi di cyberbullismo, quindi so tutto di lei perché magari è il mio compagno di banco a scuola, quindi ho un potenziale altissimo per poter far danno e lo faccio sotto anonimato. Quindi è questo che rende pericoloso Ask. Lei ha proiettato delle immagini che si possono proiettare solo in un convegno, non possono girare ufficialmente. Abbiamo visto ragazzini e ragazzine, sono tutti giovanissimi, abbastanza nudi, con le mani sui propri genitali. Queste sono ampiamente presenti in rete dalle vostre indagini? Assolutamente sì, sono i famosi selfie che tutti questi ragazzini, anche abbondantemente minorenni, si fanno, prevalentemente se li fanno davanti allo specchio, si fanno questi selfie e li postano in rete, selfie che vengono fatti nella maggior parte dei casi anche a volto scoperto, qualcuno o qualcuna si copre il volto, però è ordinaria amministrazione in questi social. Ma è vero che ci sono anche video di momenti di intimità tra un lui e una lei giovanissimi che vengono postati? Sì, a noi nel nostro lavoro che stiamo facendo su Ask non è mai capitato di trovarne. Al di là del social network girano attraverso gli smartphone dei ragazzi. Voi, indagando questa realtà di giovanissimi, ne intervistate veramente tanti, avete trovato una, e non è sorprendente, connessione tra questo uso della rete con immagini che hanno appunto questa natura e quello che effettivamente avviene invece da tanto tempo su molte riviste, su anche momenti di trasmissione televisiva o anche l'uso che fanno gli adulti della rete. Due strumenti che vengono prevalentemente usati dai ragazzi per cyberbullare altri sono: uno, la diffusione di confidenze personali. Io so una cosa che tu mi hai detto, molto riservata, e il momento in cui voglio farti un dispetto diffondo la cosa che hai detto, che magari ha commenti su altre persone, quindi ti creo un grosso disagio di tipo sociale. L'altra è appunto postare foto intime o anche foto ridicolizzanti, quindi non pensiamo solo a aspetti legati in qualche modo alla sessualità, anche foto in cui la persona ritratta in una situazione buffa, ridicola, umiliante, eccetera, e queste foto vengono postate in rete. Fatta questa premessa, ci chiediamo che differenza c'è fra, lei faceva riferimento a quello che facciamo noi adulti, che differenza c'è fra i fuori onda che adesso vanno tanto di moda e dalle fotografie rubate a persone che poi vengono messe sui rotocalchi per mettere alla berlina o ridicolizzare il protagonista della foto? Siamo freschi del caso Ci sa fare col gelato, no? Della ministra. Esatto, quello è un riferimento recente, ma ce ne sono tanti altri, e non importa se il personaggio di turno è un potente o una persona qualunque. Quello che è importante è che l'esempio che noi diamo è questo: i ragazzi non fanno altro che ripetere quello che vedono fare su altri strumenti a noi adulti. C'è anche un altro aspetto che certamente può derivare da un immaginario che è quello di una società in cui bisogna avere successo a tutti i costi, che è quello che riguarda i like, e voi su questo avete dei dati di indagine che sono piuttosto, insomma, abbastanza drammatici. Sì, la like è uno strumento perverso per gli adolescenti, perché poi si è passati da Facebook, dove questo mi piace poteva essere messo e viene tuttora messo ai post, cioè quando io dico una cosa, posto una cosa, mi vengono rimessi dei mi piace e sono riferiti a quella cosa, poi per avere altri mi piace devo postare qualcos'altro. Invece in molti altri social network, tornando a questo Ask perverso, i like si sommano tutti, quindi diventano una specie di termometro della popolarità del singolo. Qualunque cosa dico vado a cumulare like. A questo punto, se ho molti like sono un figo, se ho pochi like sono uno sfigato. Quanti like? I ragazzi dicono, però, queste sono, dicono che meno di 2000 like sei uno sfigato, però adesso non è tanto mettere l'asticella, è che per avere questi like sono veramente disposti a far tutto, quindi foto compiacenti, far vedere, raccontare le storie più strane che li vedono come protagonisti. Addirittura su Ask una ragazza ci ha mandato il decalogo 10 cose per avere dei like, perché per loro è diventato un po' la misura della propria autostima, e quindi fanno cose a volte anche controvoglia probabilmente, ma perché devono rimanere in quota, non possono perdere like. Dalla vostra indagine risulta anche che si inventano storie di vita tremende, grandi malattie che non hanno, ma che servono ad attirare comprensione. Sì, sì, questo attirare grandi malattie, situazioni familiari drammatiche, proprio perché questo attira comprensione. Molte sono le fotografie che postano di tagli, cioè è molto diffuso fra gli adolescenti l'autolesionismo, e quindi postare la foto dove si vede il braccio con il segno del taglio fa like. Dove nasce il guaio? Qualcosa che nasce così per esibizionismo, per giocare in modo strano mandando appunto queste immagini, poi a un certo momento diventa un tremendo boomerang, ma i giovanissimi e le giovanissime si trovano a quel punto in un vicolo cieco perché non possono chiedere aiuto, per esempio i genitori, che sarebbe fondamentale. Sì, allora diciamo che molti casi di cyberbullismo vengono innescati da comportamenti un po' provocatori della vittima, che possono essere una foto provocante, che possono essere dichiarazioni un po' borderline, qualunque cosa. E questo può a volte innescare un episodio che poi diventa facilmente virale sulla rete, di persecuzione nei confronti di una persona. A questo punto, siccome diciamo la causa scatenante è responsabilità del soggetto da un certo punto di vista, questo ha grande difficoltà a parlarne con i genitori, perché la prima cosa dovrebbe rendere conto ai genitori di quella foto che ha messo o di quella frase che ha detto, di quel commento che ha fatto. A questo punto capisce che diventa molto difficile, e i ragazzi finché possono resistono. Nella nostra indagine abbiamo visto che solo poco più del 15% dei casi di cyberbullismo autodichiarati dai ragazzi arrivano ad un adulto di riferimento. Qui però il problema è che, possiamo facilmente immaginarcelo, il dialogo fra l'adulto che va a capire, cercare che cosa combina suo figlio o sua figlia, insomma questa azione, questo dialogo può essere tremendamente difficile. Ma secondo voi, quindi dalle indagini che fate, c'è però l'esigenza invece dell'adolescente di riuscire ad avere su questi suoi problemi un incontro con i genitori? Allora, c'è senz'altro da parte degli adolescenti il desiderio e la voglia di avere un interlocutore adulto, e noi lo abbiamo sperimentato. Il laboratorio adolescenza ha messo proprio un proprio profilo su Ask, e noi riceviamo migliaia di domande da adolescenti che ci chiedono consigli di tutti i tipi, quindi questa voglia c'è. È vero che con i genitori probabilmente in determinate circostanze e situazioni può essere la persona nei confronti della quale è più difficile aprirsi, però c'è la scuola, c'è il mondo dei pediatri per esempio, che adesso sta avendo grande sensibilità da questo punto di vista. Quello che è importante è dare ai ragazzi più opportunità, più ciambelle di salvataggio. Poi non importa se si confiderà con un insegnante o con un genitore, l'importante è che queste situazioni emergano e che i ragazzi abbiano la possibilità di avere un adulto di riferimento di cui fidarsi. E voi date un'indicazione generale di, come potremmo chiamarle, di atteggiamento, ecco, complessivo che bisogna avere, cioè attenzione, dialogo, chiacchiere, ma mai sotto forma di dimmi cosa stai facendo, mai sotto forma di interrogatorio, insomma. Sì, noi abbiamo fatto proprio un esperimento con i ragazzi in una scuola a Milano, con il laboratorio di adolescenza, facendo proprio trovare ai ragazzi un po' la ricetta per avviare il dialogo. E alcune cose che hanno detto sono proprio quelle lei, che diceva lei: attenzione, che però non significa oppressione, dialogo, che però non significa che, questo da parte degli adolescenti, che tutto quello che dicono i genitori in virtù di questo dialogo debba essere messo in discussione. persone, le regole devono esserci e gli adolescenti sono i primi a riconoscerlo. Anche interessamento, domande che però non diventino un interrogatorio. Quindi ci sono degli strumenti per poter avviare questo dialogo, ma è un dialogo che deve essere complessivo da parte di tutta la società che è intorno agli adolescenti. Siamo arrivati alla fine della puntata. Purtroppo sì, però diciamo agli ascoltatori che possono continuare a seguirci sul blog, che è facilmente raggiungibile dalla home page di radio24.it, e poi possono scriverci, no? Alla mail, certo. moebius@radio24.it. E quindi buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!